in primo piano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, sono Lionello Mancini, come diceva poc'anzi Alessio. La lettura dei giornali di oggi è veramente molto ricca e gli argomenti principali che troviamo sulle prime pagine dei maggiori giornali, ma vedremo più tardi che daremo un'occhiata anche a qualche giornale non, diciamo, tra quelli più venduti, perché hanno delle angolazioni o hanno degli argomenti che sono molto particolari. I due temi, dicevo, sono: uno, il discorso dei vescovi sulla povertà, sulle tutele dei lavoratori; l'altro, la bomba coreana, nordcoreana, che spaventa il mondo. Questi, dicevo, i due temi principali, ma i giornali poi si producono in una serie di approfondimenti o di ricerca di notizie esclusive, che oggi direi ha dato degli ottimi risultati, perché, come vedremo, i temi sono tanti e gli approfondimenti sono anche tanti. Vorrei cominciare dal Sole 24 Ore, che a mio avviso, per quanto riguarda, dicevo, i giornali maggiori, ha sicuramente le pagine dedicate alla politica internazionale, o comunque al mondo in generale tra economia e politica, le più interessanti e le più particolareggiate. Allora, abbiamo l'allarme FAO, paesi ricchi a caccia delle terre dell'Africa. È un articolo di Angelo Mincuzzi, un inviato del Sole 24 Ore, un articolo che troviamo solamente su un altro giornale, ma un po' meno diffusamente, cioè sulla Stampa, per chi fosse un abituale lettore di quel quotidiano. Direi senz'altro che vale la pena di leggere quell'articolo. Il Sole 24 Ore dedica l'intera pagina 15 a questo tema e il titolo è: caccia alle terre d'Africa per nutrire i paesi ricchi. L'allarme della FAO dopo il boom della quotazione delle commodities agroalimentari. Le commodities sono le materie prime, quindi il grano, il riso, queste cose qua. Tokyo proporrà al G8 un codice etico contro gli abusi, quindi c'è proprio un problema molto grave, non sembra una cosa inventata. Vi leggo solo alcuni passi dell'articolo di Angelo Mincuzzi. E parte dal caso l'affaire Daewoo. L'affaire Daewoo è praticamente il fatto che una parte di un paese che adesso non trovo, comunque di un paese africano, forse Madagascar, è stato dato sostanzialmente in gestione alla Daewoo Logistics, che è questo colosso sudcoreano che si occupa di tutto, come ci sono ancora in Asia queste grandi agglomerati industriali che hanno tutte le branche praticamente di produzione e di commercio. Quindi Daewoo Logistics aveva annunciato di aver ricevuto in concessione 1.300.000 ettari di terra, cioè 13.000 km quadrati, un'area grande quanto mezza Sicilia o il Trentino Alto Adige, un pezzo del paese appaltato a uno Stato straniero. Ancora più avanti dice: l'Africa ora si interroga preoccupata sulla lezione dell'affaire Daewoo. Negli ultimi anni paesi come la Cina, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, la Libia e la Corea del Sud si sono lanciati in una corsa allo sfruttamento di terreni coltivabili delle aree povere del globo per assicurarsi gli approvvigionamenti alimentari che i loro territori non riescono a garantire. Una vera e propria razzia, secondo alcune organizzazioni non governative, con effetti destabilizzanti soprattutto perché il cibo non viene utilizzato per nutrire popolazioni affamate, ma quasi sempre esportato. Il boom dei prezzi degli alimenti e le limitazioni all'export hanno provocato una nuova accelerazione del fenomeno. Il land grabbing, la grande razzia di terre, è destinata a proseguire. Quindi c'è questa grande cartina, molto ben illustrato questo articolo, si può cominciare proprio dal vedere la cartina, e nella titolazione ancora: rapporto shock della FAO, dall'analisi di soli 5 stati emerge che sono state cedute a nazioni e società stranieri aree pari a metà dei terreni coltivabili della Gran Bretagna. Questo è uno degli argomenti trattati dalle pagine internazionali del Sole 24 Ore. Un'altra pagina è dedicata per l'appunto alla vicenda che, come dicevo, si trova sulle copertine di tutti i quotidiani. Pyongyang, che è la capitale della Corea del Nord, sfida il mondo. Nuovo test atomico in Corea del Nord. Obama: serve una risposta. La potenza dell'esplosione sotterranea è 20 volte superiore a quella della prova di 3 anni fa. Sono stati anche lanciati 3 missili, dice ancora la titolazione dell'articolo di Stefano Carrer, che è l'inviato a Tokyo. Sono stati lanciati anche 3 missili a corto raggio. Il Consiglio di sicurezza ONU, riunito di urgenza, esprime una forte condanna. C'è poi un articolo di Umberto Rapetto che dice: sul web il regime non è più così segreto. Voi sapete che Pyongyang ha l'ossessione della segretezza, e i più grandi tra voi ricordano sicuramente qualcosa di simile con l'Albania, quando c'era ancora il regime comunista, in cui c'era questa ossessione di non far trapelare nulla all'esterno. Invece col web questa volta ha questo caro leader, come chiamano Kim Jong-il, il dittatore nordcoreano, e stavolta insomma gli va un po' peggio, perché con la rete è molto più difficile. Democrazia in rete, scrive Rapetto, questo è il titolo del suo articolo. Il lavoro dell'intelligence spontanea sul web, il regime non è più così segreto. Un universitario americano si occupa di raccogliere tutte le informazioni disponibili. Le cartine sono della Corea del Nord, sono già state scaricate oltre 35.000 volte. Capite che le cartine non sono solamente, come dire, i fiumi, i laghi e i monti, ma nelle cartine ci sono anche gli impianti, gli insediamenti industriali, eccetera. Quindi qualcosa che serve a chi sta osservando quel paese. Poi c'è l'analisi di Alberto Negri sulla figura del caro leader, un dittatore cinico e infantile dall'aria vagamente rockabilly. Legami internazionali fin dagli anni '80, quando il paese ospitava il capo dei Pasdaran iraniani, sono molto stretti i rapporti con Teheran. In effetti, su questa vicenda della Corea del Nord si lega anche il problema di queste grandi scommesse internazionali di Obama, e questi suoi punti caldi su cui dovrà cimentarsi nei prossimi mesi, e che non sono per niente facili, anche perché gli interlocutori hanno delle modalità che non sono certo quelle americane, quindi c'è tutta una filosofia asiatica dietro le trattative e dietro i rapporti diplomatici. Perciò tra la Corea del Nord, l'Iran con Ahmadinejad che sta anche lui andando per la via del nucleare, per certi versi ogni tanto fingendo o comunque insomma mostrando di voler interloquire con l'America, il problema dell'Iraq, il problema dell'Afghanistan, insomma sono... Queste qui sono le grandi scommesse che un leader mondiale come Barack Obama dovrà sicuramente affrontare. Nella pagina sempre del Sole 24 Ore, a fronte a quella dedicata a Pyongyang, troviamo Iran generazione Facebook, un altro inviato del Sole, Vittorio D'Arold, da Teheran, viene dagli under 30, la più grande sfida al regime degli Ayatollah. E c'è questa pagina dedicata all'Iran, che come dicevo poc'anzi è un altro delle grandi sfide dell'America e del mondo intero, di quelli che vorrebbero dare una svolta dopo l'epoca, diciamo dopo i decenni delle guerre. Torniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore e vorrei citarvi un articolo, che poi è un'intervista che viene pubblicata a pagina 2, a firma di Mario Margiocco. Il professor Crisi e le 3A d'America. Il professor Crisi è questo economista, Nouriel Roubini, 50 anni, che nel 2006, scrive Mario Margiocco, aveva previsto la crisi finanziaria del 2007-2009, ma fu accusato di non giustificare le proprie analisi con adeguati modelli matematici. Nouriel Roubini, 50 anni, è stato la grande e attendibile Cassandra degli attuali guai finanziari americani e mondiali. Si era fatto notare ad Harvard per le sue competenze matematiche, ma ha seguito una strada opposta a quella della maggioranza degli economisti: meno modelli matematici, più storia dell'economia, più interpretazione e una sana sfiducia nelle teorie onnicomprensive, anche in quella che proclama la razionalità dei mercati. Un'intervista che fa parte di questo ciclo che il Sole ha dedicato alle lezioni per il futuro, quindi questi grandi articoli di scenario, queste analisi approfondite, questi tagli di visuale che aiutano a comprendere un po' la situazione, e vi invito senz'altro a leggerla a pagina 2 del Sole 24 Ore, mentre sul sito del Sole continua il dibattito online su queste lezioni per il futuro. E sempre dal sito del Sole 24 Ore, come sapete, sotto nella prima pagina vengono sempre ormai indicati quali sono gli articoli più letti. Beh, al primo posto troviamo i piani delle regioni per la casa, quindi come vediamo la concretezza anche dei nostri lettori, dei lettori del Sole 24 Ore è assoluta. Quindi piani casa delle regioni, benissimo, ma anche un po' di un po' di teoria, un po' di approfondimento come questo. Su un altro giornale vedremo un titolo che porta anche il Sole 24 Ore in prima pagina, anzi almeno due, che sono Playboy in vendita, la famosa rivista di Hugh Hefner, che viene messa in vendita perché anche questa rivista non ce la fa più con la carta stampata. Internet ha abbattuto le conigliette, ormai il porno più o meno soft su internet ormai diciamo, è dilagato, e quindi anche la rivista, nata se non ricordo male negli anni 50, sta pensando di chiudere i battenti. Altro argomento, il Lombardo alla prima crociata, il fogliettone del Sole 24 Ore, che però indica un problema abbastanza serio, che è il fatto che si è dimessa la giunta regionale siciliana per dei contrasti dentro la maggioranza di centrodestra. Un'ultima segnalazione dal Sole 24 Ore, a pagina 3, una intervista di Monica D'Ascenzo a Franco Aletti di Banca Leonardo sul tema dello scudo fiscale, che aiuterebbe, secondo Aletti, le ricapitalizzazioni delle aziende, sottinteso. Il rientro dei capitali è ormai urgente. In questa intervista il banchiere analizza i vantaggi dello scudo fiscale, questa operazione per cui chi ha capitali all'estero e li fa rientrare paga solo una piccola imposta, ma in questo modo rientrerebbero in Italia diversi miliardi di euro che sono attualmente all'estero, diciamo se va bene, ma nei paradisi fiscali, come spesso succede se va male, e il fatto che siano nei paradisi fiscali è una questione che ormai gli stati, tutti gli stati che sono tutti alle prese con dei conti pubblici molto negativi, è una, diciamo, un atteggiamento e una operazione che non tollerano più, e perciò vogliono che questi soldi, questi denari rientrino. Abbiamo ancora qualche minuto prima delle notizie sul traffico, e allora, come vi dicevo prima, vorrei indicare, ecco, l'Avvenire, che è il giornale i cui editori sono i vescovi. Chiaramente, in una giornata come questa, in cui l'appello dei vescovi sulle condizioni di vita delle classi più disagiate in Italia è sulle prime pagine di tutti i giornali, direi che è, a mio avviso, un euro ben speso, perché ovviamente la prima pagina porta molto ampiamente il volto vero del paese. E il discorso di Bagnasco, nelle difficoltà emergono i riferimenti più tenaci, ovviamente si riferiscono ai valori di solidarietà, ai valori cristiani. Assemblea CEI, fra i temi della prolusione il Papa in Terra Santa, la crisi, il terremoto, l'immigrazione e poi l'emergenza educativa e l'anno sacerdotale. Troviamo in due pagine l'intero discorso di Bagnasco, quindi chi volesse leggerselo, chi fosse interessato, lo trova sull'Avvenire. C'è anche, lo segnalo, a pagina 10, una inchiesta che capisco essere una serie, poiché si intitola L'Italia e la recessione e siamo all'ottava puntata. Oggi si occupa della Campania anno zero, con la crisi boom di poveri, raddoppiano le richieste d'aiuto alla Caritas. Il punto d'osservazione dei vescovi sono ovviamente le organizzazioni cattoliche che si occupano di assistenza. Beh, la Caritas è sicuramente ai primi posti, e ci sono una serie di cifre sulla Campania che in effetti fanno abbastanza impressione. Il Manifesto mette insieme in questa grande fotografia due temi, e cioè la vicenda Berlusconi-Noemi, Berlusconi-Veronica Lario-Noemi diremmo meglio, e la crisi siciliana, con questo titolo sempre a effetto che sulla copertina del Manifesto, Pupi e Papi. I pupi sono i pupi siciliani, appunto, e i papi è questo modo in cui Noemi chiamava o chiama Berlusconi. Piccole crepe crescono, è il sommario del Manifesto. Nel pieno del caso Noemi, su cui cambia versione ogni giorno, Berlusconi si imbatte nel caso Lombardo. Il governatore della Sicilia scioglie la sua giunta per faide interne al PDL e in lite con l'UDC. Propone un'alleanza dei volenterosi e non chiude la porta al Partito Democratico. Infine, Libero, che è un giornale invece vicino al Presidente del Consiglio, e infatti la apertura di Libero è «Parla Berlusconi, so chi trama contro di me. Mi avevano avvertito, il gruppo Repubblica all'Espresso ti vuole disarcionare. La stampa, invece di parlare dei successi di questo governo, è impegnata a diffamare persone per bene». E a pagina 3 si trova questo articolo del direttore di Libero, Luigi Paragone, che riporta questa conversazione, come lui stesso la definisce, due chiacchiere informali al telefono con il Premier per capire che aria tira e se il caso Noemi può avere strascichi politici. Governati, quindi non un'intervista, ma un colloquio a block notice aperto. Quindi a pagina 3, a pagina 3 di Libero parla Berlusconi. Intanto noi sentiamo le notizie sul traffico. In primo piano. Eccomi ancora con voi, sono Lionello Mancini, vorrei riprendere la lettura dei giornali che, come dicevo in apertura di rassegna stampa, sono particolarmente ricchi, e concediamoci qualche minuto di leggerezza, ma poi non troppo, perché è il modo che Massimo Gramellini sulla Stampa ha di affrontare il tema di un mondo che sta cambiando abitudini a causa della crisi. Il titolo del suo quotidiano Buongiorno di oggi è Con le mani, e scrive Gramellini: ho una pessima notizia da darmi. Con la crisi tornano in auge i lavori manuali. Chi non può più permettersi di accendere un mutuo per pagare un idraulico strappa alle ragnatele il libretto di istruzioni in tedesco e riprende contatto con la spigolosa fisicità della sua lavatrice. È il rilancio della civiltà della concretezza, è il recupero dell'autosufficienza e dell'autostima. È il disastro per chi, come me, non sopravviverebbe più di 2 ore a un camping con i Boy Scout di Franceschini. Forse un giorno scriverò lo Zen e l'arte del rammendo del calzino, ma intanto dovrei smetterla di dissanguarmi l'indice ogni volta che tento di infilare il filo nella cruna del lago. Siamo all'inizio di una nuova selezione naturale e so di figurare nella lista dei brontosauri. Se avessi una figlia di 18 anni, anziché la velina le suggerirei di fare la sartina, c'è maggior richiesta e minore concorrenza. Nei paesi anglosassoni il fai da te è già un filone televisivo, dal Grande Fratello al Piccolo Chimico, non mi avranno come finalista. Mi consolo con le avventure altrui, ho un amico con 2 lauree che ha impiegato 3 ore e 28 minuti per collegare il decoder al televisore. Quando cominciava a sentirsi un inutile agglomerato di libri, ha tirato una botta contro l'apparecchio e quello inopinatamente si è messo in azione. Mi ha confessato di essere stato pervaso da una sensazione molto maschia, la stessa che provò il mio antenato a Neanderthal nell'istante in cui, dopo aver ustionato 3 mogli e altrettante suocere, riuscì finalmente ad accendere il fuoco. Lo trovo straordinario questo modo, questo approccio che per certi versi può assomigliare alla maca di Repubblica, quella curata da Michele Serra. Sulla prima pagina della Stampa, che ovviamente dedica amplissimo spazio alla vicenda Fiat Opel ormai addirittura d'arrivo, e infatti troviamo ben 2 pagine dedicate a queste, quindi Opel marchionne dalla Merkel e domani supervertice a Berlino, scrive a pagina 4 la Stampa. Sulla prima pagina troviamo con una certa evidenza questa piccola polemica di Zucchero, il cantante Zucchero, che dice: per l'Abruzzo brutta canzone, non so se andrò all'Olimpico, è vera solidarietà oppure è solo una forma di autopromozione. È una piccola polemica, dicevo, perché probabilmente poi Zucchero ci andrà, e in qualche modo un altro cantante molto famoso e noto per la sua generosità, Jovanotti, lo difende. Dice: ho sentito, dice Jovanotti a pagina 41 della Stampa, ho sentito le dichiarazioni di Zucchero e non le ho trovate polemiche, è esattamente ciò che mi ha detto quando ha accettato di esserci, è venuto anche se con delle riserve, il che indica la sua generosità. Prima di essere una canzone, Domani, che è questa canzone che non piace a Zucchero, è un contenitore di generosità. Stiamo parlando appunto del concerto all'Olimpico per raccogliere fondi per l'Abruzzo. Sempre dalla prima pagina della Stampa, Berlusconi su Noemi pronto a chiarire tutto, l'apertura del giornale è più tutele per i lavoratori, quindi torniamo al discorso dei Vescovi, richiamo del cardinale Bagnasco, non sono, i lavoratori, una inutile zavorra. Il presidente della CEI al governo, sono necessari ammortizzatori sociali e sulla sicurezza ci sono norme ambigue. Questa la Stampa di Torino. La Repubblica ovviamente dedica una gran parte della prima pagina ai 3 argomenti di giornata, che sono: i vescovi in campo sulla crisi, i licenziati non sono zavorra, la Corea del Nord sfida il mondo con un nuovo test atomico, grande foto notizia, una manifestazione di Seul contro i test atomici in Corea del Nord. Seul, come sapete, è la capitale della Corea del Sud ed è il paese più preoccupato di questi movimenti così inconsulti del caro leader della Corea del Nord. ancora c'è grande spazio sulla vicenda Noemi, perché come sapete Repubblica è il giornale che ha sollevato e sta conducendo questa campagna. Berlusconi si difende, spiegherò tutto. Lo sfogo di Veronica, il problema non è Noemi ma il comportamento del Presidente del Consiglio. Torna in campo Giuseppe D'Avanzo con la prima missione tra un rosario di bugie, che a pagina 8 e 9 è un po' un resumé di quanto accaduto fino adesso. L'ultimo colpaccio è stato l'intervista all'ex fidanzato della ragazza napoletana, e c'è un articolo che vi invito a leggere, molto interessante, di Stefano Rodotà, che come sapete è uno studioso che si occupa in particolare dei temi della privacy e che dunque mette in rilievo questo tipo di problematiche riferite alla vicenda Premier Noemi. Un grande reportage di Repubblica che viene segnalato in prima pagina, nell'ospedale che cura le ferite dell'America, a pagina 32 e 33 troviamo questo reportage di Francesca Caferri. Viaggio nelle corsie del Walter Reed, dove da 100 anni si curano gli invalidi di guerra, con protesi per i mutilati, riabilitazione e terapie psicologiche. Qui si fanno miracoli, ma per i reduci dell'Afghanistan e dell'Iraq il momento più difficile è il ritorno a casa. E queste foto di giovani mutilati, senza un braccio, senza una gamba, con delle gambe artificiali, eccetera, sono veramente un forte monito contro la guerra. A pagina 17 di Repubblica, una pagina dedicata a Powell, ricorderete l'ex segretario di Stato americano, dice: voglio salvare i repubblicani. Lui è schierato e si è schierato per Obama, ma nel duello a distanza con Cheney sulle macerie del partito repubblicano. Andiamo ancora avanti. Sì. Ecco, vi segnalo quest'ultima parte di Repubblica. La maturità declassa l'orale, rispondere bene vale di meno. Esami al via tra meno di un mese, più peso al curriculum. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento a domani.